se volete la verità. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Mattino, ascolta su Radio 24, Alino. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? And if you send it to all mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Stay, should I go? It's always these. You left me when I know my knees. One man is fine, the next is black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Quelli che se ne vanno sono sempre i migliori. Se ne vanno 100.000, ce ne sono 60 milioni qui, sarebbe a dire che i 100.000 bravi e intelligenti se ne sono andati e quelli che sono rimasti qui sono tutti pistola. Permettetemi di contestare questa tesi. Io conosco gente che è andata via e che è bene che stia dove è andata, perché sicuramente questo paese non soffrirà moltissimo a non averli più tra i piedi. Eccolo qui l'audio di Poletti, del ministro del lavoro. Non ho ancora capito chi conosce che è meglio che se ne stia fuori dai piedi, non so, un nipotino sfaticato, un amico, figlio di un amico, la figlia di un amico, che boh, non ci aveva voglia proprio di mettere la testa a posto, non lo so, lui li conosce, persone che è meglio che se ne stiano fuori dai piedi dall'Italia. Bella sta versione dei Clash, hanno cambiato un po' la voce. Ma che è sta versione di Should I Stay or Should I Go? Lorenzo Nespoli, dove l'hai pescato? Nel tuo archivio. Senti, senti, senti. Così. Allora, c'è un Peter Bescapè in forma, in regia, e c'è un Lorenzo Nespoli in redazione. C'è anche Carmelo Lauricella in regia, grandissima forma tutti quanti qua. Oggi ragazzi ci sono delle notizie pazze, pazze. Vabbè, Poletti l'abbiamo sentito, poi c'è a Venezia. A Venezia il sindaco ha deciso di fare un regolamento comunale per cui i vigili devono avere pochi tatuaggi, niente piercing, capelli corti per le donne, niente smalto, niente rossetto, niente fard. Fuori servizio si trucchino così. Benvenuto 2016. Tra l'altro Brugnaro, sindaco di Venezia, ha anche deciso che vuole spostare le mense dei poveri dal centro. Sono troppo vicine allo struscio, danno fastidio questa povertà da guardare in faccia. Pura cialtroneria. No, questa è De Luca che ogni tanto conduce 24 mattino, si che sa. Spettacolo, che spettacolo. E si sa. E si sa. Ma c'è però una, ce ne sono tante di notizie pazze, no? Purtroppo ci sono anche le notizie drammatiche che arrivano dalla Germania. Ma la notizia più incredibile, secondo me, è questa del boicottaggio a Bocelli. Esiste una roba più insulsa di boicottare Bocelli perché dovrebbe andare a cantare all'inaugurazione di Trump? Ma dai, ma veramente. I fancazzisti su Twitter e sui social non hanno proprio nulla a cui pensare. Oggi il bersaglio, ieri il bersaglio è stato Bocelli. Oggi chissà. Oggi potrebbe essere. Ecco, sentite qua. No, non si può! Non si può! Il giorno in cui Trump, presidente degli Stati Uniti, regolarmente democraticamente eletto, anche se non piace a molti, si insedierà, non potremo sentire lui, Andrea Bocelli, il maestro. Mamma mia, ragazzi. sono solo e sogno all'orizzonte, mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, ma che vergogna, su, che vergogna. Le finestre mostra tutto il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò. Non so se capite, non so se capite. Questa cosa non si potrà sentire perché no, va boicottato Bocelli. Allora, voglio subito convocare sulle note del maestro, mentre la mia voce mi abbandona, la rossa del mercoledì, la nostra Paoletta Saluzzi. Buongiorno. Ma buongiorno, te l'ho io la notizia. Attenzione, ce n'è un'altra pazza, allora, di Natale. No, c'è una notizia e qua sotto continuano i cartelli, non so perché sotto casa mia. Alino, sindaco di Roma. Beh sì, che guarda che di sti tempi. Vogliono... Milan, buongiorno. Alessandro, buongiorno. Sì. Detto anche Alino, ti vogliono sindaco di Roma. Tu continui a non credermi. Non ce l'abbiamo fatta. Sono settimane che te lo dico. Qui ti vogliono sindaco di Roma. Che facciamo? Non ce l'abbiamo fatta con il premier, ma adesso sindaco, guarda che tra poco secondo me si libera la poltrona. Adesso questo è un altro discorso. Adesso ti cercherà di capire che cosa stia succedendo in questo comune, come dire che sta vivendo una fase abbastanza travagliata. Comunque io vedo cartelli di questo tipo. Va bene. Li fotografo e te li in caso mi candido insieme a Paola Saluzzi. Intanto già un buon Natale di anticipo. Oggi tu sei in onda, sì, regolarmente. Siamo in onda fino al 23, siamo rigorosamente. Brava. Anche questa cosa ho scoperto, che i parlamentari fanno delle ferie incredibili, delle ferie cioè più di me. È una roba vergognosa, cioè io mi fermo sabato e riprendo il 9, per esempio. Loro di più! Vi rendete conto? Di più! Ma che vergogna! Mi hanno battuto anche quest'anno di 2 o 3 giorni. È una vergogna. Voglio salutare Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Buongiorno Paola. Questo viaggio in Antartide di Luca Dini verrà ricordato. La pagherai per sempre, la Vincenza De Luca verrà ricordato per sempre. Di non essere particolarmente svegli, poco fa, mentre ero collegata con il mitico Lorenzo Nespoli, mi aveva chiamato, c'era il meteo e ho capito, non nubi sparse, rughe sparse altrove. Ho detto, oddio, come sono conciata male. No. È una cretinata, però per così, dire così. Il meteo, il meteo sparse, personalizzato, peraltro non vero, si sa, Paola Saluzzi, sempre vero. Più bella, si sa. Ma così. Lei è troppo buono, ma lei è troppo buono. È così, è così. La prego, va bene, la voto come sindaco di Roma. Direttore, dire, qui ci sono cartelli, Alino, sindaco di Roma, che vogliamo fare? Tra l'altro, attenzione, perché c'è un altro sindaco, apriamo il Parlamento, l'altro sindaco, la storia più pazza del mondo. Ragazzi, se uno esce, il sindaco di Milano che si è autosospeso e si è autoassolto e ritorna a fare il sindaco di Milano. È un momento in cui succedono delle cose così. Però non possiamo non avere lo sguardo alla cosa che più ci preoccupa. E cioè, sapete che Angela Merkel ha detto, anche dopo questo attentato, peraltro hanno sbagliato, hanno preso una persona che non c'entrava niente, adesso è in fuga l'attentatore. Però c'è tutto il dibattito, anche la Merkel con la sua accoglienza, le sue porte aperte, è sotto critica, sotto attacco feroce, anche se non si sa esattamente se sia un profugo quello che o un richiedente asilo, quello che ha fatto l'attentato, non si sa chi sia. Però Luca Dini, fa bene secondo te anche la Merkel a non cambiare linea, perché molti dicono invece, ecco, vedete i frutti dell'accoglienza. Cambiare linea, cioè, è esattamente quello che il terrorismo vuole, quindi il terrorismo è questo, cioè è costringere le persone a cambiare abitudini, i governi a cambiare politiche, Quindi sì, secondo me fa bene, anche perché se non facesse così sconfesserebbe, cioè sostanzialmente direbbe che siamo stati dei cretini. Io capisco la difficoltà e la tensione, peraltro che prima o poi succedesse qualcosa di questo tipo anche in Germania, era purtroppo Nelle possibilità, cioè, era un paese che era stato finora relativamente risparmiato. Ma purtroppo poi, quando l'abbiamo detto, si può fare di tutto, si possono mettere il cemento per blindare i mercatini, le guardie armate per blindare i supermercati, ma se uno prende un camion e vuole uccidere qualcuno, ma cosa si può fare contro questa? Ma poi c'è sempre qualcun altro, cioè se ci fossero i profughi ci sarebbe qualcun altro. Sì, poi questa cosa in Francia e in Belgio erano delle persone nate in Francia e in Belgio, cittadini. Sì, ma poi è partito, Paola, questo dibattito per cui si parla del cambiare la politica di accoglienza sul profugo. Perché è partito questo dibattito? Perché avevano arrestato questo pakistano, ma poi si è scoperto che questo pakistano non c'entra nulla, quindi non si sa chi è stato. Al volante di quel camion, di quel tir, c'era un criminale delinquente assassino, punto. Pensa se fosse un neonazista. Biondo col capello rasato. No, al momento non Pensa, si sa. Al momento non quello. Si sa. Al momento non si sa perché il camion è stato rubato lì. Tu pensa. È vero che c'è una rivendicazione c'è una rivendicazione dell'ISIS. Ci metteresti il cappello su una cosa del genere? No, ma io lo farei subito. Qualsiasi cosa, anche se si fa comodo, fa comodo. Esatto, pure se rubano le mele sotto casa è un colpo dell'ISIS. Non stiamo dicendo scherzando, è il contrario, è una storia drammatica. E se troveranno, e se sarà uno che aveva richiesto asilo, non l'aveva richiesto, che sarà pakistano, afgano, siriano, chissà dove, la signora Merkel, che si è messa di ieri di fronte, credo, alla sua più difficile conferenza della vita, ha fatto comunque bene a dire quello che ha detto, perché non è la caccia dalli allo straniero che porterà risultato, è operazione difficilissima, andare a cercare l'ago nel pagliaio, su questo non ci sono dubbi, ma tu pensa se soltanto questo non fosse afgano? Tu pensa? O comunque un profugo. Questo intanto la cosa più importante... Ha deciso di rovinare... La cosa più importante è che venga preso. Ricordiamo Utoia. Appunto, il signor Breivik non era afgano. Sì, no, è chiaro. Ovviamente stiamo a vedere, si spera intanto che venga preso, perché pare che sia una persona molto pericolosa e armata. Tra l'altro, tra le varie vittime c'è anche questa di questo autista polacco che era partito proprio dall'Italia e che è stato sequestrato di fatto e ucciso, raccontano anche con... immagino sofferenza, perché coltellate, insomma pare che abbia combattuto per cercare di evitare questo sequestro del mezzo e poi ha portato a questa strage. Però ovviamente ecco, adesso si legge anche Milano blindata, i Navigli blindati, chi non è di Milano sa che i Navigli è una delle zone anche dello Struscio, a Bolzano, caro Luca, si pensa oddio i mercatini di Bolzano cosa fanno, li dobbiamo sospendere, li dobbiamo... La verità è che non ci si può blindare a quadrupla mandata sperando poi di... No, anche perché il terrorismo, appunto, lo dice il nome, deve creare terrore colpendo random. Quindi non è veramente, come dire, la cosa più sbagliata, secondo me, è cambiare completamente le abitudini. È come dire, non attraverso più la strada perché prima o poi mi investiranno. Sì. È vero, è così. Purtroppo io lo dico, lo ribadisco, bisogna convivere con questa nuova minaccia, che non vuol dire, come mi dice qualcuno, bisogna, ma lei si rassegna. No, nessuno si rassegna, bisogna combatterla, ma bisogna purtroppo pensare che se ci sono dei pazzi, speriamo siano pochi, che vogliono andare in una strada qualunque delle milioni di nostre strade, a farsi saltare in aria, non è che possiamo, come dire... purtroppo impedire tutto questo, non è che possiamo blindarci e vivere così in una bolla di abbiamo preso di i treni dopo l'Italicus abbiamo preso i treni dopo la stazione di Bologna, dopo il rapido di Natale, è terribile, abbiamo continuato, certo, continuare significa, non è che nel frattempo polizia e carabinieri e forze dell'ordine in Italia non cercassero i terroristi. Era difficilissimo, era meno difficile del mondo rispetto al quale noi ci troviamo in questo momento, non ci sono questo dubbi. Sicuro. Comunque, ragazzi, l'Italia ha già convissuto con qualcosa di che almeno per me è stato peggio di questo, perché poi tutti si dimenticano sempre che l'unico problema sia l'ISIS nella storia, no? Invece ci sono state altre cose, il paese è andato avanti e io mi ricordo, cioè, tutti i giorni veniva ucciso qualcuno, tutti i giorni c'era una bomba, tutti i giorni c'era qualcosa. E nonostante ciò siamo andati appunto avanti. Siamo andati avanti. Però signori, cambiamo un attimo tema, voglio parlarvi di Poletti. Allora, l'audio l'avete sentito. Caro Luca. Io mi ricollego tra l'altro, mi dispiace, non voglio fare retorica facile, però Fabrizio Di Lorenzo, 31 anni, sì. Probabile, lo dico dai familiari, vittima a Berlino, chiaro. Di Berlino, era una figlia dell'Erasmus che lavorava in Germania. Quindi devo dire che Poletti, a me spiace però... Queste persone sono pagate per pensare a quello che dicono. Io. Sì, ma poi cosa vuol dire conosco alcuni? Anch'io, forse tutti conosceranno una persona che è meglio che se ne stia lontano dall'età. Ma cosa significa? A chi pensava? Cioè... Ma io non lo so, però guarda, devo dire, veramente mi spiace, ma sono stufo di sentire ah, ma mi avete frainteso, volevo dire questo. Secondo me, io sarò duro, però uno che parla così da ministro se ne deve andare. Lo dico molto così. lo dici molto piatto piatto, British, sì, British, ma... dai, cioè, voglio dire, se non hai nemmeno l'attenzione per usare le parole per esprimere un concetto, io non mi fido di te. Punto. Così bam, hai capito la bordata, cara Paola Saluzzi, la bordata. Giuro, può andare all'estero, può andare all'estero, già che c'è. Aggiungo, così come non mi fido di qualcuno che scrive una cosa per leggerezza in un curriculum. Sono prese per i fondelli a tante persone che il neo ministro Fedeli, forse non è, non è il problema di essere laureati o no, è il problema di scrivere leggerezza sul curriculum. Beh, è una bugia, si chiama bugia. In Germania per esempio, ricordiamo, certo. tesi non date, ministri che sono saltati, questo sì. Dovrebbe essere così anche per noi, cara Paola. La durezza British di Luca Dini ti piace oppure e nessuno dica è Natale, siamo più buoni. No, esatto. È Natale, bastoniamo duro. Sta picchiando come un fabbro e picchia su, insomma. Voglio dire, e d'altronde gli vogliamo bene anche per questo. Certo, no, ma assolutamente. Allora, però, dopo il traffico vi voglio fare... Beh, ma ragazzi, è il giorno delle notizie pazze. Ha parlato anche Marra, quello che insomma, è stato arrestato. Ho preso 370.000 euro da Scarpellini, è vero, ma era pura cortesia. Oh, signori, ma chi non vorrebbe avere un amico, un cortese amico? Tu ce l'hai un cortese amico, cara Paola, che ti fornisce 370.000 euro? Aspetta che lo cerco, Noi siamo amici a Roma. Vabbè. Paola, forse ci vuole fare una cortesia. Abbiamo un'amica a Roma, non so. Roma funziona. Paola, infatti. A Roma funziona così. Cioè, pare che la cortesia a Roma sia così. Amici di Roma. Io volevo scoprire così adesso le carte, dai, su. Però... Come siete generosi. Cari amici di Roma, pensateci durante il traffico. Voi dareste per cortesia 370.000 euro a un funzionario comunale? Così, per gentilezza. Ma noi. Anche a noi. E vai col traffico! Guardate che il ministro Poletti, come tutto il resto del governo, mi stanno sulle balle, ma sul caso dei cervelloni che sono andati all'estero ha perfettamente ragione. Ciao Maria, sono sempre una cieca. Stamattina quando ti ho sentito mi sono un po' commosso, perché te non lo sai, ma noi toscanacci, come ci chiami te, siamo polemici e passionali. Il problema è Schengen. Non ci sono controlli alle frontiere, il polacco col pakistano di fianco che dalla Germania rientra in Germania come profugo, se c'era una frontiera veniva controllato, il problema è Schengen. Condividete la scelta di un ex alemagnano come Marra? Guardi, io penso soltanto una cosa, chi ha distrutto questa città non fa parte della nostra squadra, chi in questi anni ha dimostrato buona volontà ed ha competenza e storia personale all'interno della macchina amministrativa ci venga a dare una mano. Questo è Luigi Di Maio, Luca Dini, Luigi Di Maio a luglio, che però oggi dice: non è vero che ho mai detto che Marra poteva stare con noi. Perché lui dice: ascoltate bene, non ho detto Marra, ho detto chi ha una lunga storia, chi ha competenze ci aiuti. Non ho capito perché associate a Marra questa mia frase. Vabbè, la domanda era su Marra, adesso è questione di lana caprina. Però questo è. Tanto avete sentito il nostro ascoltatore che Schengen, il pakistano, il profugo. Niente, ormai è passata questa verità, che è stato un profugo. Non lo sappiamo perché è in fuga chi ha colpito il Germania. Comunque, anche se fosse, dire che il problema è Schengen è come dire che negli Stati Uniti il problema è che non ci sono controlli tra il Texas e l'Oklahoma. Cosa vuol dire? Cioè, ci sono delle frontiere da qualche parte, non è che il problema sia la frontiera tra l'Austria e la Germania. Va bene, comunque diciamo che il dibattito è sempre quello. Però a Roma, Paola, io te lo chiedo tutte le settimane, come va? Tutto a posto, sempre? Tutto a tranquillo? Roma, Alino Sindaco. Alino Sindaco, certo, sì, sì, questa sì, questa per sì. Risponderti così, ma non per dirti che vada male. Va malissimo. No, a Roma, che va malissimo, non è vero. Sì. Alino, questa cosa la stai tirando fuori tu. No, il senso è che siamo qui e aspettiamo di capire. Che succede? Sì. Ma ho capito, ma scusa, cosa accadrà? Ma per la prima volta nella storia hanno anche bocciato il bilancio triennale dicendo che è scritto pieno di errori, che non... Ora adesso io lo so che partirà l'idea, ci stanno boicottando, non lo so, per carità, io non lo so, sa tutto Paola Saluzzi, io non so niente. Certo. Li stanno boicottando? No, dimmelo tu, li stanno boicottando? Per dire. Allora, io non credo al boicottaggio, do subito la parola a Luca Dini, sì. Non credo al boicottaggio, credo semplicemente che ci si trovi di fronte ad un tentativo che deve riuscire per tutti, dall'una e dall'altra parte, di comprensione di cose che sono avvenute. Sì, no? Tentativi. Però comprenderle è importante. È in fretta. Perché Luca, non è che Roma non abbia bisogno d'aiuto. Ecco, tu che dici, di Luca? Li vedi un po' incerti, diciamo così, un po'... Guarda, io devo dire che rispetto sempre il voto, chiaramente, e quindi dico che... quel 70% che l'ha votata se la tiene un pochino. Però un po' sì, perché voglio ve dire la avete votata? E mo beccatevela Raggi, questo è l'editoriale, sì. L'editoriale di Lucadini. Insomma, è riassunto, però in effetti era questo, perché tema di competenze e di esperienza c'era, un tema di persone scelte un po' a capocchio c'era, anche quello, quindi... Non è una sorpresa. E dire che appunto ci sono poteri forti, il gruppo Bilderberg, non so che cos'altro. Però dire quelle cose tipo andiamo avanti tranquilli, sereni, se riceveremo avvisi di garanzia, ma di che cosa stai parlando? Ti hanno smontato la giunta completamente, non hai detto A. Che mandato hai? La gente ha votato te. Momenti difficili. Tra l'altro, gente non ha fatto il contratto con la Casaleggio. Hanno votato Virginia Raggi. E questo sì. Ma è la prima, un po' scontenta di questo, come dire, di questo cappello che gli arriva da là. Allora lo faccia capire. Allora, intanto, visto che sono il giorno delle notizie pazze, ragazzi, una ne ha detta anche Berlusconi, purtroppo non abbiamo l'audio, ma quella più bella del mondo. Ieri uscendo dal Quirinale ha detto la battuta più bella del mondo, caro Luca Dini, cara Paola Saluzzi, ha detto: come si batte la Juve? Domenica, venerdì, come si batte la Juve? Bisogna cambiare l'arbitro. Berlusconi la tocca piano, bisogna cambiare l'arbitro. Oh, così. Buon Natale a tutti e via in allegria. Ma signori, qui prima di vedere anche cosa c'è sulla prima pagina di Vanity Fair, voi non potete scampare al nuovo premio che abbiamo istituito ringraziando Giachetti. Il premio è... Hai la faccia come il culo. Avete la faccia come il culo. Ebbene sì, è diritto di tutti noi, dopo che Giachetti ha sdoganato questa espressione, dare il premio faccia da culo a chi volete voi. A chi volete voi, anche se volete dire il nome, non il cognome, ma se volete in qualche modo... Tanto Giachetti ci ha aiutato in questo. Quindi, caro Luca Dini, tu hai in mente, come dire... Non lo so. Sono indeciso tra Poletti e Di Maio oggi. No, Poletti e Di Maio. Esequo. Paola, adesso ti mettiamo in grave difficoltà. Adesso. No, no, allora, inventati qualcuno che non inviterai mai. No, permettetemi, prima di Natale, non per fare veramente come dire quella che sta sempre in mezzo, di non fare il nome. No, ma siccome so che in questo momento descrivicelo, perché ti segue ti segue sempre, c'è una persona che sa che il premio va esattamente alla sua persona. No, vabbè. Punto. Ho capito, però. E sono felice di questa opportunità nel mantenere il segreto sul nome che il grande Alino Milan mi ha offerto. Bene, va bene. Ma secondo te ha capito? Ha capito questa persona? Si ha capito. Si ha capito. Proprio ha capito benissimo. Che bel regalo di Natale. Va bene. Che bello, che sono soddisfatto. Che bello, che bello. Allora, come regalo di Natale, ci avete anche il numero di Vanity Fair, guardalo qui, c'è Tiziano Ferro in copertina, ma voglio anche, giù con l'ormone, Paola, voglio anche... Giù con l'ormone, ma... No, nel senso, hai fatto un wow, così che... però voglio segnalare, visto che abbiamo parlato anche di questo, c'è un bellissimo servizio di Aleppo, caro Luca, no? Da dove si fugge? Sono proprio voce di questa a fatica. La fine del sogno, di questo sogno durato 4-5 anni di libertà, e soprattutto la storia, cioè il destino, devo dire, veramente terribile di bambini che sono nati nella rivoluzione e sono morti prima della fine, quindi hanno conosciuto solo quella città, solo questo assedio. No, ma voi raccontate giustamente questa fuga anche difficoltosa, con grande difficoltà. Da Aleppo, oltre a intervistare Tiziano Ferro. Cara Paola, tu alle 10 non fai le ferie come i parlamentari, sei in onda. Assolutamente, fino a venerdì siamo pronti in onda, ovviamente partiremo da Berlino. E poi posso dire una cosa, ho due ospiti tra gli altri, per un tema completamente diverso, molto speciali. Franco Masello, l'uomo che ha inventato la città della speranza a Padova, digitare per vedere che cosa sia, e so di parlare a persone che hanno il cuore per capire. E poi Nicola Brunialti, che è un grande pubblicitario, ma in realtà, oltre a fare il grande pubblicitario, è l'autore di fiabe per bambini che fanno crescere anche i grandi, se le leggono. Bello. Si chiama Nicola Brunialti. Che bello. Ed è uscito ora con questo libro, Alice a faccia di mostro, spiegando ai bambini come una cicatrice sul viso di una che una bambina porta con sé, che la fa sentire un mostro, una cicatrice non voglia dire niente, che la vita sia altro. Che bello. Quindi sono felice di avere sia Franco Masello che Nicola Brunialti, e grazie a te Alessandro per avermi permesso di... Poi lo vedremo dalle 10 su Sky. Grazie davvero, buon Natale Paola, buon Natale Luca, ci sentiamo prossimamente. Anquo Alessandro Mina e leggerai i giornali come uno che legge i giornali. E che tanti schei? 24 mattino. E che volete che ve li legga gratis? Adesso va bene tutto, cari ascoltatori. Alle 7:20 minuti siamo qui nello spazio della lettura di 24 mattino. La rassegna stampa, insomma, siamo... qui a leggere i giornali, ovviamente Berlino e quello che è successo in Germania è ancora il titolo più gettonato, ma non solo, c'è tanto da andare a vedere. Andiamo. Mercoledì 21 dicembre, per esempio, l'apertura del Sole 24 Ore su Vivendi, che arriva al 25,7%, Mediaset vola in borsa, questo è il titolo di prima pagina. Poi appunto Berlino. In fuga il terrorista del camion, è il titolo di apertura del Corriere della Sera, mentre Repubblica, Berlino, la lunga fuga del killer, lacrime italiane per Fabrizia Di Lorenzo, 31 anni, scomparsa, il suo cellulare trovato sul luogo dell'attentato. Caccia al killer in tutta Europa per La Stampa, mentre caccia al terrorista in fuga è Il Giorno. Poi è curioso, interessante vedere come alcuni giornali, diciamo, orientati più a destra e altri più a sinistra, vedano questa vicenda. La Verità, avanti o profughi alla Jihad, mentre Libero, la miglior difesa è non averli qui, allarme terroristi islamici. Il Giornale, la Merkel sbaglia terrorista